Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Ci collegheremo con quelli che poi sono anche i temi o il tema di borsa in una giornata in cui tutte le borse europee perdono circa un punto percentuale, -1% Milano, -1% anche Parigi, -0,90% Francoforte, -0,80% Londra, -0,20% in questo momento gli Stati Uniti, con un euro a quota 1,3180. Dicevo, deboli oggi le banche, qui pesano soprattutto le incertezze più di medio termine, diciamo, non di brevissimo termine, su quando, a questo punto nessuno dubita infatti che avvenga, ma è il tempo che interessa, quando la Banca Centrale Americana inizierà a dare un giro di vite alla liquidità. Ne abbiamo accennato nei giorni scorsi, gli Stati Uniti stampano 80 miliardi di dollari di praticamente ogni mese, la media più o meno 80 miliardi al mese per garantire liquidità e quindi pompare liquidità nel sistema. Ora, siccome l'America si sta riprendendo meglio delle attese, il dato di ieri era molto significativo su questo, il rischio è che con i tassi a zero praticamente e con moneta che viene stampata ogni mese in quella quantità si generi inflazione. Prima o poi l'America dovrà tornare anche a stringere i rubinetti, alzare i tassi di interesse e smettere di stampare o stampare meno dollari e rientrare anche sul deficit. Questo vuol dire un giro di vite che spaventa gli investitori perché renderà più caro il denaro e rischia poi di ripercuotersi anche su chi in questo momento ha comprato, per esempio, titoli di Stato europei, in particolar modo italiani e spagnoli. Di questo parleremo nel finale del programma, ma l'altro tema che ci collega alla borsa riguarda invece solo ed esclusivamente Milano, perché oggi, a fronte di una debolezza generica, dicevo, dei titoli e in particolar modo di quelli bancari, va molto bene Telecom Italia, si è risvegliata da un torpore, più 8,50% in questo momento, ed è chiaro che il balzo di Telecom Italia è strettamente da collegarsi con quanto è successo ieri. Vodafone infatti ha confermato di essere in trattative con l'americana Verizon per cedere la sua quota, che è il 45%, di Verizon Wireless. È una joint venture, quindi una società tra i due gruppi che opera nel settore della telefonia mobile. L'operazione vale circa 130 miliardi di dollari, l'accordo potrebbe essere già annunciato la prossima settimana, ma soprattutto ci si chiede che cosa farà Vodafone, colosso della telefonia, con tutti i soldi che incasserà, e qui inizia il gioco delle ipotesi, per cui si dice potrebbe provare a acquistare TIM Brasil, quindi la controllata brasiliana di Telecom Italia nella telefonia mobile. Tra l'altro la messicana America Movil ha lanciato un'offerta da 7 miliardi sul gruppo olandese KPN, che chiede più soldi, quindi è tutto in movimento il settore delle telecomunicazioni. Faccio notare che appunto era rimasta indietro rispetto alla corsa di questi ultimi mesi proprio Telecom Italia come andamento in borsa, e infatti oggi fa più 8,70%. Di questo parleremo in apertura, perché veniamo da anni di torpore, diciamo così, sul mondo delle telecomunicazioni, mondo che aveva guidato la bolla, lo ricorderete, nel 99-2000 della cosiddetta dot-com, quindi la bolla internet, si muoveva anche e soprattutto attraverso i titoli delle telecomunicazioni. Poi il torpore di questi ultimi anni con quotazioni poco mosse o in calo, e il risveglio di questi ultimi mesi, tranne che per Telecom Italia. La borsa, dicevo, per il resto è negativa, soprattutto su Banco Popolare -3% e anche Azimut -2,80% come Steamark Electronics e Buzzi Unicem. Fiat negativa del 2,60% come la Popolare Emilia Romagna e Mediolanum, e anche Mediaset. Pirelli -2,5%, Fondiaria -2,40%, Atlantia -2,30%, Monte dei Paschi -2,1%. I numeri per i vostri SMS, il numero resta sempre 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. benzina, oro e petrolio. Allora, dopo lo sfilarsi della Gran Bretagna, il fatto che l'eventuale bombardamento in Siria dovrebbe partire non prima di mercoledì, queste le ultime novità. L'oro è in calo a $1,395 l'oncia, il petrolio in calo a $107 il barile, ma continuano i rincari della benzina in Italia. Tamoil, Shell e Kuwait hanno aumentato i prezzi di benzina e diesel di un centesimo, IP di un centesimo la verde e di mezzo centesimo il diesel, Esso di mezzo centesimo su entrambi i prodotti. E questa mattina il direttore generale dell'Unione Petrolifera, Pietro De Simone, ha detto che il comportamento delle aziende è stato di grande cautela e riflessione, perché per tutto il mese di agosto non c'è stato alcun aumento, sebbene le quotazioni internazionali siano cresciute di 6 centesimi e mezzo, il prezzo interno è cresciuto solo di un centesimo e mezzo. Nuove notizie dall'India. Molto preoccupate le autorità indiane per questo rallentamento dell'economia indiana e soprattutto per questa debolezza storica, a questo punto come dato, della rupia indiana. Oggi si è avuto conferma che l'India sta frenando. Nei primi tre mesi dell'anno fiscale, 2013-2014, è cresciuta del 4,4%, un livello più basso sia rispetto al trimestre precedente che un anno prima. Particolarmente preoccupante il dato per il settore manifatturiero indiano, che segna il passo meno 1,2%. Pace fatta intanto fra Stati Uniti e Svizzera nella dura controversia fra l'Agenzia delle Entrate americane, il fisco di Washington, e le banche svizzere, accusate di aiutare i cittadini americani ad evadere le tasse. I due paesi hanno firmato un accordo, secondo una nota di Berna, permetterà alle banche di regolarizzare la situazione passata. Saranno esclusi dall'intesa gli istituti oggetto di inchiesta penale negli Stati Uniti. Gli altri saranno divisi in tre categorie e le sanzioni ammonteranno complessivamente a $1 miliardo. Lo spread italiano torna sopra i 250 punti e 255 punti, il tasso BTP a 10 anni è al 4,38%, la differenza con la Spagna resta di 15 punti, cioè la Spagna ha uno spread a 270 punti, mentre sempre sul fronte europeo è arrivato oggi un secco no dei sindacati europei alla proposta del commissario europeo Olli Rehn di ridurre i salari in Europa del 10% per rilanciare la crescita, una proposta che riprendeva uno studio in realtà del Fondo Monetario Internazionale in cui si suggeriva alla Spagna di tagliare in maniera abbastanza generica e generalizzata tutti gli stipendi di un 10% per due anni. Secondo il Fondo Monetario questa mossa produrrebbe significativi benefici in termini di crescita economica e di aumento dell'occupazione. E proprio sull'occupazione oggi è uscito il dato sia a livello europeo che a livello italiano. Il tasso di disoccupati nell'area euro è rimasto stabile al 12,1%, continua a crescere invece la disoccupazione giovanile al 24% nell'area euro. I tassi più bassi di disoccupazione si hanno in Austria, 4,8%, Germania 5,3%, quelli più alti in Grecia 27,6%, pensate che in Grecia la disoccupazione giovanile è al 63%, cioè su 100 giovani che potrebbero 63 sono disoccupati. La Spagna, che è a livelli quasi greci, 26% la disoccupazione complessiva e 56% quella giovanile. L'Italia ha avuto un leggerissimo calo dal 12,2 di maggio e poi 12,1 di giugno, si è scesi al 12% di disoccupazione. Ma anche da noi si conferma la tendenza europea, come dire, la parte più pesante di questa crisi si sta scaricando soprattutto sui giovani. Perché lo dico? Perché se la disoccupazione complessiva è fermo, anche in leggero calo, è aumentata anche da noi quella giovanile, siamo al 39,5%. Sono comunque oltre 3 milioni senza lavoro in Italia, persi 560.000 occupati, e il crollo più forte si è avuto al sud, nella diminuzione dell'occupazione, su 585.000 occupati persi, e 335.000 sono stati nel nostro mezzogiorno, dove ci sono tassi di disoccupazione spagnoli o greci. In Campania siamo al 22%, in Calabria al 21%, in Sicilia al 21%. Appunto, con un tasso di disoccupazione giovanile pari al 39,5%, se poi uno è giovane, donna e abita al sud, è il massimo della sfiga, si può dire in radio, diciamo che è il massimo della sfiga, perché praticamente il tasso di disoccupazione giovanile femminile nel nostro sud ormai è al 50%, cioè una su due non lavora. Non desta invece preoccupazioni l'inflazione nell'area euro e in Italia, siamo praticamente, a mio avviso, per alcuni beni già in deflazione, però insomma siamo all'1,1% di inflazione ad agosto. In realtà frenano i prezzi dei beni alimentari ed energetici, però se poi scorporassimo le varie voci vedremo che per alcuni beni siamo appunto o a prezzi fermi o in deflazione. Dopo l'IMU l'IVA, o meglio si vorrebbe arrivare dopo l'IMU all'IVA, ma le ipotesi sono molto molto aleatorie in questo caso. Perché lo dico? Perché dopo le dichiarazioni di ieri del viceministro Fassina, che aveva detto insomma adesso sarà indifferibile un aumento dell'IVA, visto che abbiamo trovato i soldi, abbiamo dovuto eliminare l'IMU e reperire risorse per 4 miliardi in più anche l'anno prossimo, oltre a quelle che servono quest'anno, che sono 2,5 miliardi. Oggi il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta ha detto: vabbè, le possibilità che l'aumento dell'IVA venga eliminato per sempre è sotto il 5%, cioè non c'è, per cui ha escluso che l'aumento dell'IVA possa, da 21 al 22%, possa essere eliminato. Quello che il governo ha garantito è un rinvio, per cui fino al 2014, inizio 2014, non dovrebbe scattare l'aumento dell'IVA, cercando di inserire poi un aumento dell'IVA in una riforma generale delle aliquote fiscali. Nel frattempo, mentre la CGA di Mestre ci fa sapere che con l'aumento dell'IVA le famiglie meno abbienti saranno quelle più penalizzate, per il Financial Times l'accordo fatto ieri sull'IMU non è un buon affare e a perderci è l'Italia. Nel frattempo Palazzo Chigi ha smentito le indiscrezioni su nuove ipotesi di tassazione delle seconde case per trovare i soldi per il provvedimento sull'IMU, riportate da alcuni giornali questa mattina. Ha detto Palazzo Chigi, si riferiscono a bozze circolate nei giorni scorsi e non fanno parte del provvedimento comunque che sarà in Gazzetta Ufficiale. E dicevo insomma dell'aumento dell'IVA, sentiamo, visto che ce lo chiedete, anche la dichiarazione di Stefano Fassina, del vice ministro dell'economia Stefano Fassina, sul consiglio dei ministri di ieri che ha abolito l'IMU. Non ha detto Fassina la tassazione sulla prima casa, aprendo anche dubbi su quanta tassazione ci sarà poi in questa service tax, questa tassa che andrà a unire tutto, IMU, tassa sui rifiuti e quant'altro. E poi appunto definendo come irrimediabile l'aumento dell'IVA. L'IMU è stata abolita, non è stata abolita la tassazione della prima casa. La service tax prospettata ieri dal Consiglio dei Ministri include nell'ambito di applicazione anche la prima casa. Si è fatto un'enorme fatica a trovare i 2 miliardi necessari a finanziare la cancellazione della prima rata dell'IMU. Certamente tra poche settimane avremo un obiettivo molto molto ambizioso da raggiungere. Temo che sia necessario fare anche in quel caso delle scelte. Allora, sì, questa è la dichiarazione di Fassina di ieri. Oggi ha risposto il presidente dei deputati del PDL, Renato Brunetta, ha detto assolutamente non c'è un rischio di aumento dell'IVA, chi lo dice fa solo terrorismo a fini politici o a fini congressuali, e mi riferisco, congressuali, e mi riferisco a Fassina. E poi ha continuato Brunetta attaccando anche il Financial Times, che criticava oggi la mossa sull'IMU, dice c'è un pregiudizio interessato nei confronti dell'Italia e l'intenzione di discreditare il nostro paese e soprattutto anche chi lo difende. Però la notizia di oggi, e veniamo al primo tema, 349-238-6666 per i vostri sms, riguarda quello che sta capitando in un altro settore che ci eravamo abituati a, non dico ignorare, ma a trattare poco, perché era un settore in cui dopo il grande boom degli anni 90, inizio anni 2000, tutto si era un po' fermato. Mi riferisco alla telefonia, superata dai grandi colossi della Silicon Valley e dalla rivoluzione dei social network, quindi non solo Microsoft e Google, ma anche Apple e poi Facebook, Twitter. La telefonia era diventata in questi anni, diciamo, semplicemente il veicolo, i binari su cui far muovere certe informazioni, ma aveva smesso di rappresentare, diciamo, il centro, l'epicentro delle novità. Le novità le ha portate, se posso spiegare in maniera un po' brutale, il software o comunque nuovi supporti, da lì tutta la rivoluzione dei tablet. Si dava per scontato che poi ci fossero degli operatori che questi dati li devono far viaggiare nell'etere. In realtà tutto si è riaperto ieri con un'operazione che vale 130 miliardi di dollari. Vodafone ha confermato di essere in trattativa con il colosso americano Verizon per cedere a Verizon la sua quota di una società che hanno assieme, che si chiama Verizon Wireless, che opera nel settore della telefonia mobile. La quota che Vodafone venderebbe a Verizon, nella società in cui sono in joint venture, vale appunto 130 miliardi di dollari. E questo arriva dopo che la messicana America Movil ha lanciato un'offerta da 7 miliardi e 200 milioni di euro sul gruppo olandese KPN, il quale ha detto no, vogliamo un'offerta più alta. E soprattutto adesso tutti si chiedono, bene, Vodafone, che già la prossima settimana potrebbe chiudere l'operazione, cosa farà di questi 130 miliardi di dollari? Centesimo più, centesimo meno. Che ci sia fermento nel mondo delle telecomunicazioni lo dimostrano anche gli andamenti dei titoli in borsa degli ultimi mesi, perché praticamente da inizio anno Deutsche Telekom ha guadagnato il 13% in borsa, Vodafone ha guadagnato il 32%, Telenor il 14%, BT, quindi British Telecom, il 41%, Orange ha fatto un calo del 7%, e poi Telecom Italia invece da inizio anno ha perso, al di là del guadagno di oggi, ha perso il 29% del suo valore, toccando tra l'altro proprio a inizio agosto il suo minimo storico a 47 centesimi di euro. E mentre il titolo si avvia a chiudere con un botto più 9,25%, Marigia Mangano del Sole 24 Ore sta seguendo tutta la vicenda Telecom Italia. Buonasera. Buonasera. Ti sentiamo un po' bassa, se alziamo un po' il volume della Mangano. Allora Marigia, l'operazione di ieri uno potrebbe dire ok, è un'operazione tra Verizon e Vodafone, roba loro, c'è risveglio nel settore, perché viene coinvolta in maniera a questo punto abbastanza diretta anche Telecom Italia? Allora, in realtà appunto Telecom è un po' sotto i riflettori da diverso tempo, perché ha un grosso problema di debito e un grosso problema anche di strategie, oltre che di assetto proprietario. È chiaro che in questo fermento del settore delle telecomunicazioni in Europa si guarda Telecom come possibile preda, o comunque diciamo si pensa che questo risveglio del settore possa in qualche modo accelerare una, diciamo, una rivoluzione all'interno di Telecom Italia. Non a caso Telecom si trova appunto in un momento molto delicato per quanto riguarda la proprietà, che oggi è rappresentata da Telco, che è una scatola che controlla il 22,4% di Telecom Italia ed è partecipata da Mediobanca, Intesa, Telefonica e Generali. Il problema è che a settembre partono le disdette al patto e due di questi degli azionisti di Telco, che sono Mediobanca e Generali, hanno già fatto sapere che daranno disdetta. Quindi certo, ci si chiede come verrà ricostruito l'azionariato di Telco, anche perché la stessa Telco ha, al pari di Telecom Italia, che ha 40 miliardi di debiti, un problema di debito, dato che ha 3 miliardi di debiti con tra l'altro alcune linee in scadenza. Ecco perché oggi il mercato, ma in realtà è da tempo che appunto si guarda a cosa succederà a Telecom Italia. Il segnale, per esempio oggi, diciamo che a risvegliare il titolo è stato anche un report molto interessante della Bernstein, che ha tracciato un po' di scenari su quello che potrebbe succedere a Telecom Italia alla luce del risico europeo. Ecco, questa era l'altra domanda che avevo per te, nel senso che qui ci sono due operazioni. La prima è Team Brasil, già vi facciamo un riferimento, il mercato inizia a dire bene, adesso Vodafone farà un'offerta per la controllata di Telecom Italia Team Brasil, che opera appunto nella telefonia mobile. Brasile, visto che c'è anche un ascoltatore che mi scrive, è un paese invece che continua ad avere dati abbastanza buoni, anche più che buoni in alcuni casi, per cui è sicuramente un luogo e un paese dove avere ampi margini. Però non sfugge che oltre all'operazione Team Brasil, come tu già dicevi, qui in gioco non c'è solo la cessione di una controllata brasiliana, eventuale cessione, c'è proprio la ridefinizione complessiva dell'azionariato di Telecom Italia. Le ipotesi sul tappeto, Marigia? Sì, allora guarda, in realtà per esempio, come dicono gli stessi analisti in Berse, il gruppo italiano potrebbe essere interessante, giudicato interessante dalla stessa Telefonica, che chiaramente oggi rappresenta l'unico socio industriale di Telco, ma anche da AT&T, America Mobile e Vodafone. È chiaro che gli scenari sono diversi. Vodafone, parto da Vodafone perché appunto è anche l'operazione più recente. Vodafone, con l'incasso dell'operazione con Verizon, potrebbe lanciare un'offerta, secondo sempre gli analisti, su Team Brasil, ma anche su GVT, la controllata di Vivendi, che era stata ritirata perché le offerte erano giudicate troppo basse. Questo potrebbe innescare un po' una guerra tra gli operatori del settore e trasformarsi in un takeover proprio della controllante Telecom Italia. Oppure il secondo scenario, che appunto tracciano gli analisti, è quello di un ritorno dell'operazione che era fallita nel 2007, l'accordata TNT American Mobile, che potrebbe andarsi a spartire Telecom Italia con gli asset italiani, che andrebbero a TNT, mentre quella la parte diciamo sudamericana, che è anche la più appetibile per Slim, ad America Mobile. E infine invece c'è chi guarda semplicemente un rafforzamento di Telefonica, nel senso che, dato che Mediobanca e Generali danno disdetta, Telefonica potrebbe decidere di rafforzarsi all'interno di Telco, con una quota di poco, diciamo sotto la soglia del 30%, perché per Telefonica c'è un problema chiaramente di controllo per il discorso di tutti gli obblighi dell'antitrust brasiliano, cioè avere il controllo di Telecom Italia per Telefonica potrebbe avere anche delle ricadute in Brasile. Ecco, da questo punto di vista faccio solo una nota, sono titoli e gruppi privati, è giusto che siano resi contendibili. Faccio solo notare che praticamente l'Italia è l'unico, sarebbe, se Telecom Italia dovesse andare diciamo in mani straniere, non mi piace, ma insomma essere scalato da un gruppo straniero, forse Telefonica del tutto o qualcun altro, l'Italia sarebbe l'unico dei grandi paesi a non avere una compagnia telefonica, diciamo, partecipata la maggior parte da gruppi italiani stessi, perché Deutsche Telekom esiste, British Telecom esiste, France Telecom esiste, Telefonica in Spagna esiste, e ho chiuso anche il cerchio. E faccio anche notare che, ma questo meriterebbe un'intera puntata, che prima del processo di privatizzazioni di Telecom, noi avevamo la numero 1 e la numero 3 in Europa come società di telefonia mobile, si chiamavano TIM, si chiama TIM, e l'altra si chiamava Omnitel. Poi per scalare Telecom con la Nino vendete l'Omnitel a Vodafone e perdemmo uno dei due soggetti e mo rischiamo pure di, rischiamo detto, di perdere tra virgolette anche l'altro, fermo restando che poi Marigia un gruppo che fa telefonia non sarà così sensibile, così strategico, di interesse nazionale strategico come un gruppo energetico, ma ci va molto vicino per quanto è già privatizzato, come conosciamo dalle vicende anche giudiziarie. In tutto questo, per concludere, come si inserisce l'ipotesi invece di andare avanti con la separazione della rete rispetto ai servizi che ci mandi sopra questa rete? Guarda, allora il processo chiaramente va avanti con tutti quelli che sono i limiti a livello appunto comunitario e quant'altro. È chiaro, come ho scritto peraltro ieri, oggi, sulle 24 ore, che c'è una trattativa effettiva, un mandato rinnovato ai vertici di Telecom Italia nell'ultimo consiglio di amministrazione per trattare con la Cassa Depositi e Prestiti per l'ingresso nel capitale della società che andrà appunto a contenere la rete. È chiaro che però questa operazione inevitabilmente si intreccia anche con il risico, quindi aspettiamo e vediamo cosa succede, anche perché la disdetta, voglio dire, partirà a settembre. Perfetto, grazie intanto a Marigia Mangano del Sole 24 Ore. Adesso c'è il meteo e la pubblicità. Telecom ha chiuso sui massimi, più 9,36%, di questo non continueremo a parlare, ma degli altri titoli in borsa della giornata sì, dopo appunto meteo e pubblicità. Focus Economia. minuti, adesso arriviamo anche alla borsa. Vedo molti messaggi ancora sul tema IMU e IVA. Non ci sono grosse novità se non lo scambio, diciamo, Fassina-Brunetta per quello che riguarda l'IVA. C'è invece il fatto che Palazzo Chigi, ma questo ve l'hanno già confermato i nostri GR, smentisce le indiscrezioni di nuove ipotesi di tassazione sulle seconde case per trovare i soldi per il provvedimento sull'IMU. Si riferiscono appunto a bozze, ma non fanno parte del provvedimento che sarà in gazzetta ufficiale. E sulle seconde case fatemi fare un chiarimento. Allora, ieri, illustrando un provvedimento molto articolato, molto complesso, era emerso che, per un motivo che adesso non posso ripercorrere, vi sarà un aggravio di tassazione, anche se poi il governo oggi smentisce, ma insomma, noi avevamo con Salvatore Padura utilizzato tutti i dati a disposizione sulle 24 ore e ci risulta questo: un leggero aggravio di tassazione sulle case sfitte e sulle seconde case. Io ho solo detto che è sempre brutto aumentare le tasse in ogni caso, che però aumentarle su una casa sfitta, il governo ha anche previsto un'agevolazione fiscale per chi fa un contratto regolare e va a pagare un 15% in concordato, ma dicevo, una casa sfitta che delle volte può nascondere un affitto in nero, o le case al mare, le case in montagna, cioè, dei vari mali mi sembrava il male minore, non che non fosse un male, ma il male minore. Non ce l'avevo, lo dico per i vari messaggi che sono arrivati, né con chi ha la casa in montagna, magari l'ha ereditata, capisco tutto, ho solo detto che il male minore, dove andiamo? Aumentare la... il prelievo fiscale. E anche sulla casa sfitta, molti hanno detto è sfitta perché non riusciamo a affittarla, non è vero che nasconde il nero, non ho detto che nasconde sempre il nero, diciamo che alcune volte succede. Poi se invece vogliamo ragionare se fosse meglio abbassare l'IVA e lasciare l'IMU, a mio avviso in un paese con un catasto non borbonico sì, perché l'IMU comunque ha una sua progressività, una casa che vale 1 milione paga una certa IMU, una casa. Il problema è il valore catastale della casa, perché crea delle grosse disuguaglianze nel territorio e anche all'interno delle stesse città. Comunque la borsa, e poi veniamo anche a questo, ma soprattutto alle incertezze di queste borse, che sono incertezze non solo legate alla Siria o alla tenuta del governo italiano, purtroppo hanno un respiro più ampio, rischiamo di trascinarcele a lungo. La borsa, dicevo, al di là di Telecom Italia, Milano chiude assolutamente in linea con le altre borse europee, meno 1,32% Milano, meno 1,32% è anche il calo di Parigi, meno 1,12% quello di Francoforte, meno 0,80% Londra, meno 0,40% l'America. Flavia Carletti, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Lasciamo stare Telecom, ne abbiamo parlato fino adesso. Le banche, quasi tutte tranne Intesa San Paolo, poi anche lei ha perso, la Pop Milano meno 0,31, UBI Banca meno 0,70, Intesa meno 0,80%, però Popolare Emilia Romagna meno 3,32 e Banco Popolare meno 3,32 anch'esso. Sì, esattamente, Banco Popolare dell'Emilia Romagna alla fine è risultata, insieme proprio al Banco Popolare, la peggiore tra nel segmento principale di Piazza Affari, e oggi è arrivata da parte di Standard & Poor's per Bipper un declassamento che ha abbassato il rating da BB a BB meno con outlook stabile, dicendo che questo declassamento riflette proprio i conti trimestrali del gruppo, perché ci sarebbe stato un peggioramento della qualità dell'attivo della banca superiore alle attese. E Banco Popolare ha perso anche oggi, come aveva perso ieri, perché era stata nel giorno in cui Piazza Affari è andata meglio delle altre borse europee il titolo che aveva guadagnato di più, e quindi probabilmente c'è stato un effetto maggiore di realizzi proprio sul Banco Popolare, perché avendo guadagnato di più, oggi che invece sono scatenate le vendite da un certo punto della seduta in poi su tutto il settore, è stata quella più penalizzata di altre. E questo per quello che riguarda appunto i due titoli. Oggi però anche Mediaset ha perso, va detto che ha recuperato, insomma è a 3,10 meno 2,60%. Sì, Mediaset, tranne il giorno in cui, all'indomani dell'accordo sull'IMU, ha avuto comunque una settimana completamente negativa, perché da una parte prima pagava l'incertezza sulla tenuta del governo, però poi, come ricordavano gli analisti, Mediaset in questi giorni paga anche altri motivi che vanno al di là di quella che è la situazione politica italiana e al di là della situazione di Silvio Berlusconi, che è il fondatore del gruppo. Ci sono, prima di tutto bisogna ricordare che Mediaset da inizio anno è stato uno dei titoli che è cresciuto di più in assoluto, quindi in un momento negativo è proprio uno di quelli su cui si va a trarre profitto, e in più mancano tutta una serie di notizie che il mercato aspetta sui fondamentali della società. Per esempio agosto è un periodo anche debole per la pubblicità, prima che possano arrivare indicazioni sul periodo di settembre, che è quello per cui ci si attende una ripresa. Bisognerà aspettare delle settimane, quindi in questa fase un po' di poca visibilità su quelli che sono dei dati più sensibili per il mercato a livello societario, si tende a vendere. Ancora Fondiaria SAI, ieri una nuova mazzata per Giulia, ma soprattutto Lionella Ligresti, 25 milioni di euro comunque a Fondiaria SAI per compensi e sponsorizzazioni, la società dei cavalli della Ligresti, però lì hanno detto che avevano già fatto gli accantonamenti, cioè avevano già messo dei soldi da parte con il rischio appunto che arrivasse una nuova richiesta dal fisco. Sì, esattamente, proprio ieri con la relazione sulla semestrale è emerso quest'ulteriore richiesta di 25 milioni di euro. Unipol, che ormai controlla Fonsai, ha detto che la società è già premunita per eventualità di questo tipo, però comunque per esempio gli analisti Intermonte dicono che è l'ennesima notizia negativa che va a impattare sui conti dopo quelle del sequestro, dopo comunque le azioni di responsabilità che comunque in qualche modo fatte verso gli ex amministratori, ma gli ex amministratori davanti al Tribunale Civile sostengono che deve essere responsabile in qualche modo comunque la società, anche se ha cambiato proprietà, quindi comunque è una società su cui si va sempre a incidere negativamente proprio sui conti, e non sembra che non si, come se un gatto che si morde la coda non se ne esce mai, perché finché non arriveranno probabilmente delle decisioni a livello anche di tribunale, c'è sempre incertezza su quelli che saranno poi effettivamente gli effetti di tutte queste azioni, sia in sede civile e tribunale che dal punto di vista del fisco, quindi finché non si avrà una risposta c'è incertezza da parte degli analisti, che quindi giudicano negativamente qualsiasi notizia che possa andare a impattare sui conti. Ultimo titolo che vorrei analizzare con te è G-Tech ex Lottomatica, che ha avuto una settimana molto movimentata. Sì, esattamente. GTEC è stata proprio sotto i riflettori un po' tutta la settimana negativamente, perché prima si aspettavano gli esiti della decisione sull'IMU, perché c'era il timore che potessero, per trovare una copertura per abolire l'IMU, si potesse andare a colpire molto queste società, una società come GTEC che si occupa del settore dei giochi. Quando sono arrivate rassicurazioni in qualche modo che la copertura impatterà non così tanto sul comparto, è arrivata invece l'indiscrezione stampa che Sisal, che è la principale concorrente di GTEC, ha intenzione di quotarsi e, secondo la stampa, potrebbe mettere sul mercato il 30% del suo capitale per una IPO valutata circa 1 miliardo di euro. Questo è stato negativo per GTEC, perché in qualche modo è una concorrente che si va a quotare anche magari sui portafogli, quando si va a decidere su quale investire, su quale meno. Sono comunque due società direttamente concorrenti. Nel momento in cui entra in borsa la Sisal, per GTEC potrebbe essere un momento negativo, e oggi, proprio che sono uscite queste indiscrezioni, già in una situazione in cui il titolo era stato proprio sulle montagne russe, e a maggior ragione in una giornata negativa si è andati a vendere. Ancora migliori e peggiori della giornata dell'ultima seduta di borsa oggi. Allora, Telecom Italia anche sulle risparmio è il miglior titolo, più 10,34%, poi Neurosoft più 10%, Screen Service Broadcasting più 9,60% e poi Telecom Italia, mentre il fronte opposto vede Premuda meno 5,30%, Borgosese meno 4,81%, IKF meno 4,35%, Media Contact meno 4,1%. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook, il traffico e poi l'ultimo tema, le incertezze che potrebbero accompagnarci da qua fino, diciamo, all'autunno, che potrebbero accompagnare soprattutto i mercati, quindi restiamo in tema di borsa. Focus Economia. Ci siamo concentrati in questa settimana sulla Siria, anzi in primo luogo sulla tenuta del governo Letta, spread in leggero rialzo, poi ricondotto intorno ai 250 punti, borsa italiana che ne risentiva, poi è arrivata la Siria, dicevo, aumentare i prezzi delle materie prime, seppur con una leggera fiammata, adesso anche in questo caso tutto sembra perlomeno ricomporsi parzialmente, non dico del tutto perché poi vedremo cosa succederà la settimana prossima. Ma ricomporsi. Uno potrebbe dire: bene, a questo punto la situazione si sta schiarendo e quindi, diciamo, da questo punto di vista i mercati veleggeranno magari con un piccolo cabotaggio, ma senza grossi rischi. E mica tanto, perché c'è una riunione della Banca Centrale Europea la prossima settimana, i tassi sono 0,5% e non dovrebbero arrivare grossi cambiamenti. Il punto è un altro, il punto è che tutti stanno a guardare che cosa sta succedendo in America, e non è un guardare negativo, perché l'America ieri ha dato un dato sul PIL nel secondo trimestre che è cresciuto più delle stime, il 2,5%, i sussidi alla disoccupazione sono scesi più delle attese, 6.000 in meno. E se tutto continua così, Ben Bernanke, il numero uno della Banca Centrale Americana, ha fatto capire che entro fine 2013 potrebbero venire meno gli stimoli, e quindi stampare dollari, tenere i tassi bassi, dati fino adesso all'economia americana. Faccio notare che la Banca Centrale stampa moneta dal 2009, il cosiddetto quantitative easing, emette titoli di Stato, l'America, che vengono comprati dalla sua banca centrale, a un ritmo di 80 miliardi di dollari al mese. Questo comporta alcuni piccoli problemi su cui vorrei sentire Mario De Aglio, che insegna economia internazionale all'Università di Torino e giornalista della Stampa. Buonasera, professore. Buonasera a lei. Lei che ha sempre queste visioni, lo riconosco da sempre, lungimiranti sulle dinamiche future. Allora, qui dobbiamo più temere la Siria o la reazione dei mercati alla Federal Reserve? Bella domanda, alla quale ogni tanto mi vengono. Non credo che in questo momento ci sia una lungimiranza che possa tenere, non abbiamo gli elementi necessari. Perché? Perché sulla Siria è proprio difficile capire, mi pare che a un certo punto Obama sia stato lasciato solo e spernacchiato nel suo paese, insomma, perché prima dice che vuol fare, poi ha dei dubbi, insomma, se guardiamo la politica degli anni di Obama, questa è deficitaria e non si capisce questo accanimento sulla Siria in mezzo a tante altre cose, se non forse perché glielo chiedono insistentemente certi amici arabi degli Stati Uniti, insomma, questo potrebbe... Beh, oddio, adesso non voglio fare un programma di esteri, però ci sono anche 100.000 morti e i civili gasati, ammesso che siano stati gasati dall'esercito, no, dico, non è che improvvisamente la Siria... Lei sa quanti sono stati morti in Iraq dopo l'intervento? Questo americano? È verissimo, no, se vuole... Allora, se dobbiamo metterci a scandalizzarci per questo possiamo farlo, insomma, mm-hmm. Abbiamo tutti gli elementi, siamo... però se guardiamo agli effetti che questo ha sull'economia, è molto incerto, cioè quello che si può vedere in questo momento è una debolezza decisionale americana che non c'è solo sulle Sirie, ma c'è anche su quello che succederà alla Fed, perché Bernanke sta per andare via, chi verrà dopo di lui, chi sarà il nominato presidenziale, dovrà fare una politica che non potrà essere grigia, deve essere o bianca o nera, cioè bianca vuol dire continuare a stampare dollari come prima e sostanzialmente chiudere gli occhi sul futuro sperando che questa massa di dollari veramente inneschi la ripresa. Nera vuol dire fare il contrario, non aumentare più questo debito pubblico americano con questi ritmi, tra l'altro tenendo conto del fatto che i tassi di interesse sono aumentati, cioè in fondo la gente alla moneta americana crede oggi molto meno di un anno fa, quindi non è poi tutto così rose e fiori come può sembrare. Quindi questo direi è il grosso interrogativo. C'è poi un secondo interrogativo meno importante ma non trascurabile, che è quello che fa la banca centrale giapponese, la quale continua come pazza a emettere soldi, è una specie di non so se chiamarlo atto da kamikaze con questa economia ferma da 20 anni che vuole tirarsi su soltanto con mezzi monetari perché ha sbagliato molte politiche industriali, oppure se c'è qualche altra cosa dietro, ma di fatto noi vediamo un mondo in cui ciascuno fa per sé. Sì. Infatti, quando lei ha nominato 2009, quando ha cominciato la stampa dei soldi in America, a quel tempo erano tutti d'accordo, i G20 hanno dato mandato agli americani a stampare i soldi convinti che in 6 mesi eravamo fuori dalla crisi. Cosa. Non è successo questo, lentamente hanno cominciato tutti a fare per conto proprio, addirittura gli uni contro gli altri in alcuni casi. Guardi questa litigata tra il Fondo Monetario e la Banca Centrale Europea sulla Grecia, si sono pubblicamente accusati di aver sbagliato tutto, di non aver capito, eccetera. Ecco, quindi in questa situazione, cosa vuole che le dica? La ripresa americana, sicuramente questi dati sono buoni, aspetterei un momentino, aspetterei un altro trimestre a dire che si sono consolidati, abbiamo già avuto troppe false partenze, ricordiamo comunque che a fronte di un PIL che è cresciuto del 2,5, mi sembra 2,7, c'è una popolazione americana che cresce tra nascite e immigrazione sull'1,7-1,8 l'anno. Quindi in termini per abitanti la crescita è ancora limitata. Ecco, non solo, ma andiamo a vedere, molti settori sono ancora in crisi. Sì, quelli dice è una ripresa, ma non è che... aspettiamo, però c'è una cosa che non capisco, Dario, non voglio fare la demi-vierge, la mezza vergine, però voglio dire, è noto a tutti che è chiaro che le misure che ha preso la Banca Centrale Americana sono straordinarie, anche se si sono protratte per anni. Ma stampare moneta, tenere i tassi allo zero, continuare a iniettare 80 miliardi al mese, erano cure da cavallo per un'economia che veniva dallo shock del 2008 e del 2009. Ora, qualunque operatore finanziario non può immaginare che la Banca Centrale Americana continuerà a stampare moneta a carrettate, imbarcando inflazione, se l'economia riparte. Perché tutto questo nervosismo? C'è chi dice che addirittura i mercati lanciano segnali quasi di ricatto, di... così mafiosi nei confronti della Federal Reserve, andando a vendere per fare capire che sono pronti a far scatenare il panico su una decisione che prima o poi deve arrivare. Non possiamo immaginare tassi a zero e dollari stampati tutta la vita. Ma guardi, leggendo, io penso come lei, ma leggendo diciamo le fonti finanziarie comuni americane, invece è diffusa questa illusione che l'America possa fare quello che vuole del dollaro, quindi stamparne quanti è necessario, secondo loro, per sempre. Che questo non avrà effetti e che tutto il mondo starà meglio, soliti discorsi di una certa retorica che però in America sono diffusi. E così come nel 2007 c'era qualcuno che aveva previsto il Dow Jones a 30.000 entro 10 anni, allo stesso modo qui abbiamo della gente che prevede che continuando indefinitamente a indebitarsi si faranno delle cose straordinarie. Devo anche dire che dal punto di vista delle innovazioni qualche punto di appoggio ce l'hanno, perché abbiamo un'economia americana che si sta fortemente trasformando, dal petrolio che diventa gas di frantumazione delle rocce, rende l'America abbastanza indipendente nei prossimi anni, fino ad andare a tutti gli sviluppi nuovi, smartphone e cose del genere, che stanno veramente per questa volta incidendo sul modo di vivere. Quindi siamo molto incerti a capire cosa succederà. Diciamo, vediamo i dati di altri 2 o 3 mesi per capire. Ultima domanda, abbiamo un paio di minuti. Anche qui le minacce più forti per questa debole, fragile, ma comunque tentativo di ripresa che dovrebbe iniziare a concretizzarsi da fine anno anche nell'area euro con diverse intensità. Alcuni paesi sono già partiti, altri no. Dico, le minacce vengono più da un'eventuale reazione molto forte dei mercati che vanno a vendere titoli di Stato italiani, spagnoli, se l'America smette di essere così accomodante, che penalizzano le borse, o da un rallentamento delle grandi economie emergenti? Perché lì i segnali sono un po' contraddittori. A me sembra di vedere un'India che si è obiettivamente fermata, la Cina tiene abbastanza, e Brasile che però dà segni anche di risveglio. Però insomma, il timore più grosso qual è? Che si fermi quello che è stato il motore manifatturiero degli ultimi anni? Direi che questo è un timore che può andare sull'arco di 5-6 trimestri, non okay. Vedo una frenata così immediata, catastrofica, diciamo da adesso a Natale. Qui la Cina continuerà più o meno, gli ordini li ha, tutto, ai fattori produttivi, la manodopera, gli ordini, quindi per il momento lì andrà avanti, e c'è questa partita molto importante del governo che cerca di riprendere un controllo, insomma, della situazione, anche i mercati vogliono andare avanti da soli. Quindi su questo lato direi che non c'è un vero pericolo. Non è da lì che arriva una minaccia? No, guardi, la vera minaccia che mi preoccupa è quella che non si può prevedere. Chi avrebbe detto un mese e mezzo fa che la città di Detroit falliva per 18 miliardi e che metà di questi 18 miliardi sono nelle banche tedesche? E quindi la crisi può venire fuori per questo. Quante sono le situazioni pericolose di società finanziarie e banche americane ed europee, soprattutto nell'ambito mondiale, che possono da un giorno all'altro venire fuori? Non lo sappiamo, ma questo spiega questo nervosismo accresciuto delle borse, che un giorno salgono del 2, il giorno dopo scendono del 2, cioè questa estrema volatilità, sensibilità, perché c'è la coscienza, la sensazione di essere in una situazione molto precaria. Grazie al professore economista Mario De Aglio, e grazie anche a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza anche questa settimana in redazione. Oggi per l'ultima volta Focus Economia termina alle 18, dalla prossima settimana tutta la radio, tutto il palinsesto riprende nella sua programmazione ordinaria, quindi termineremo alle 18.30. Intanto buon fine settimana da Sebastiano Barisoni, noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.